in onda sulla radio. Ed eccoci qui, ragazzi, in diretta con un nuovo programma dell'angolo del Tampillo, l'angolo del business. E sono qui con questi due ragazzacci che vi ho presentato prima sulle storie per parlarvi, appunto, ragazzi, di business, ma business legato alla spiritualità. Quindi adesso darò in primis il tempo a questi ragazzi per presentarsi e dirci il loro approccio al business, cosa fanno attualmente, come sono partiti, e dopo ci risentiremo per continuare l'argomento. Vai Gian, parlaci un po', raccontaci un po' di te. Sembra un po' come se, no, stessimo parlando. Ovviamente non bevo da. Però sì, dai. Allora, come ho iniziato a fare business? Qual era la domanda esatta? Come ho iniziato a fare business o di cosa mi occupo adesso? Se vuoi facciamo un recap generale. No, ti dicevo il tuo approccio, come ci sei arrivato, come, non quello che fai, diciamo, il tuo approccio proprio al concetto di business. Allora, è una domanda un po' particolare e spiego anche dal mio punto di vista perché è particolare. Io mi sono approcciato senza effettivamente un vero motivo, perché molte persone ora vedo, no, soprattutto ad oggi con la rivoluzione dei social, o comunque con la potenza che oggi hanno avuto i social, ancora più vicino? Top. Sempre meglio leggere Ertampillo meglio. Col fatto ora dei social che stanno un attimo andando a condizionare anche la vita un po' dei ragazzini con tutti i vari guru, no, fuffaguru che ci sono in giro, ad oggi secondo me una persona è un po' più predisposta ad iniziare a fare business. Invece a me è successo un po' tutto così a caso, no? Cioè ho iniziato a fare l'esercito ai 18 anni, quindi boh, lì ero, mi trovo il lavoro, contratto a tempo indeterminato, è finita la mia vita, sto a posto. Poi una certa ho detto, cioè non posso a 20 anni, perché poi dai 18 più o meno fino ai 20, 21 anni sono stato nell'esercito, ho detto non posso chiudermi, no, qui a 20 anni, a 21 anni e dire ok, ho vissuto, no, so già cosa mi aspetterà. E quindi da lì mi sono un po' imbattuto, ma anche casualmente non ho mai avuto effettivamente uno spirito guida che mi dicesse guarda, sta roba si fa così, questo si fa così, in questa maniera. Ho dovuto sbagliare. Continuo a sbagliare in continuazione perché alla fine è quello anche secondo me il punto un po' più importante da capire che nessuno capisce, no? E su questo vorrei un attimo già collegarmi a un altro argomento che mi viene adesso in mente, che è un po' la scuola, no? Dato che lei mi insegna, si occupa anche un attimo di questo ambito, conosce bene questo ambito, no? Tra scuola, università, eccetera, eccetera, no? Ed effettivamente una delle poche robe che, diciamo, contesto alla scuola è proprio il fatto che, secondo me, è sbagliato la roba del se sbagli è un qualcosa di negativo. No, perché tutto nasce da lì. Se sbagli ti becchi la nota. Se sbagli succede questo e quest'altro, lo dico a tua madre, lo dico a tuo padre. Quindi le persone hanno un po' questo, no? Questo terrore di sbagliare. Quando in realtà, purtroppo, è così. Cioè, non la vita, come si suol dire, è il maestro. Prima sbagli e poi ti insegna. Non è che prima ti insegna un qualcosa e poi sbagli. E diciamo, quando ti sei accorto però che volevi continuare, cioè iniziare a investire su te stesso principalmente, che volendo potremmo dire anche che questo è il business, tra virgolette, prima quando è che diciamo hai detto no, da adesso cambio mentalità e inizio a investire le mie energie in un qualcosa di specifico e dici tu insomma. Guarda, già con questa domanda in realtà entriamo un po' nella spiritualità. Dato che la puntata è business e spiritualità, un mezzo gancio l'ho già trovato, ossia, alla fine, come hai detto tu, il business è investire su se stesso. Oddio, diciamo che è un po' più grande la parentesi, forse è infinitamente grande, però si può ridurre tutto al dopo un po', dopo che inizi a guadagnare i primi soldi e con quei soldi ci puoi vivere dignitosamente, quindi nel senso non devi stare a controllare ogni minimo centesimo, ogni minima roba, tutte queste robe qui, inizi ad ampliare un attimo gli orizzonti e la visione, ecco. E ad un certo punto tutto gira intorno a te come persona. la differenza tra una persona che ha iniziato oggi a fare business, una persona che non ha mai fatto business, o una persona che fa business da più tempo, è quella. Ossia, io investo su me stesso, io cerco di migliorarmi giorno dopo giorno, perché so che se miglioro io, di conseguenza migliora tutto quello che è intorno a me, comprese le persone, perché anche lì è come se io ti dicessi, se io ad oggi, su questo c'è un bellissimo libro che si chiama Come trattare gli altri e farsi gli amici, se io ad oggi venissi da te e ogni giorno ti facessi un complimento genuino, sincero, tu dopo, magari la prima volta non te ne accorgi, la seconda volta non te ne accorgi, la terza volta non te ne accorgi, dopo un mese tu dici, cazzo, io voglio uscire con Gianluca ogni giorno. Perché? Perché ti aumentano quel che possa essere ego, ma che possa essere anche la confidenza, no, che hai con te stesso. E quindi ti piace stare con persone del genere. E appunto anche questo può essere, come dicevo prima, inserito nel settore del business. Perché? Perché ad un certo punto tu capisci che in base a quanto tu cresci, fai stare bene le persone che sono accanto a te, le persone che, la parte economica che hai appunto attorno, e ovviamente anche dal punto di vista economico, non facciamo i soliti ipocriti, parliamoci chiaramente, i soldi non ti dico che sono tutto, però ti aiutano tantissimo a raggiungere quel tutto che vorresti avere nella vita. Poi, ovvio, puoi avere tutto anche con 0 euro, vai a fare magari il monaco buddista, qualcosa del genere, ci arrivi, però capisci bene, no, che tutto gira anche intorno al crescere personalmente. E come ti avevo detto già all'inizio, in realtà sono uno che si perde molto quando parla, quindi in realtà qual era la domanda iniziale già me la sono dimenticata, ma te la richiederò tipo 15 volte, perché è così. Ma guarda, io intanto che tu ci pensi, colgo l'occasione, ti rubo il microfono e colgo l'occasione per ricordare a tutti gli amici che siamo in onda su Roots Radio. Ragazzi, R-O-O-Z. Non vi dovete sbagliare con la U. Questo, guarda, è una cosa che Gianluca, il fondatore, si arrabbia. Esatto. Poi siamo in onda anche su Twitch, e se volete seguire appunto la diretta, c'è il link, dovete semplicemente beccare il Linktree. Dal Linktree sulla mia pagina potete entrare o su Twitch o sulla diretta radio. E poi, in caso, quando noi risalveremo questo contenuto, lo potete anche ritrovare in seguito. Poteva sembrare una domanda, ma era un'affermazione. Poteva, ma io direi di passare dall'altro lato e chiediamo a Pier la stessa cosa per ora, così ti ricordi pure la domanda qual era. Qual è stato il tuo approccio al business? Quando hai deciso di cambiare e iniziare a farlo? Che poi lo diremo quanto lo fate bello spinto, però per ora diteci l'inizio, poi ce lo raccontate. Si parla così? Sì, bello vicino. Buon pomeriggio. Io sono come Gianluca, nel senso, me la devi ripetere 3 volte, ma nei primi 3 secondi, questo è il problema. Come ho iniziato? Come ho iniziato? È semplice, però difficile allo stesso tempo. Vabbè, io semplicemente sono partito a 15 anni. In realtà, quindi all'incirca 10 anni fa, sono partito per un motivo molto semplice, nel senso che il business online, quindi il mondo dell'imprenditoria, è l'unico settore in cui tu realmente puoi cambiare la tua vita da un punto di vista economico. Poi sono d'accordo anche che ci sono tanti lavori come l'avvocato, il medico, che fatto su scale, diciamo, un po' più imprenditoriali, ti possono portare anche a dei guadagni ingenti. Però sostanzialmente io mi sono ritrovato a 15 anni in una condizione familiare economica che non era delle migliori, e quindi sostanzialmente sono andato su Google un giorno e ho detto come guadagnare online. Ed è partito tutto da là. Quindi sostanzialmente è molto molto basic. Però sì, possiamo dire che il come ho iniziato, la tipologia di business possiamo anche specificarla. Io sono partito con l'affiliate marketing, che non so le persone che appunto ci possono seguire che cosa sanno di questo mondo, però in generale semplicemente sono partito con il vendere prodotti online di terzi. Cioè, quindi ragazzi, entrambi mi state dicendo che comunque, cioè, il business, questa voglia di iniziare non parte semplicemente, ecco, da una voglia, dici voglio fare questo, cioè è una necessità e, diciamo, è un percorso, appunto, questo proprio volevo dire, che voi vi rendete conto che si inizia oggi ma poi bisogna mantenere, no? Perché la cosa che si pensa di più sul business è il guadagno facile. Ecco, noi siamo qui per sfatare forse questo mito che... Cioè, tu puoi arrivare forse ad un guadagno facile, ma dopo un po' di tempo. Questo quello che penso io anche, cioè nel senso che comunque intanto c'è una sorta di chiamata a voler proprio costruire la propria vita, no? Cioè mettere mattone su mattone e dire io voglio questo, questo, cioè questa è al di fuori del guadagnare come necessità, questo è per questo diciamo ci mettiamo in mezzo la spiritualità. Devi costruirti prima di tutto come persona, nel senso, io ho visto molti ragazzi, essendo che noi veniamo da un contesto, da determinati business, dove parlare con le persone è essenziale, è fondamentale, cercare di capire problematiche e trovare soluzioni. Quello che ho notato io, sulla base di tutte le persone che fanno business e poi mollano, dopo un mese, un anno, due anni, tre anni, quello che sia, è proprio questa unica visione verso il denaro. E non si accorgono che la crescita personale, cioè chi sei e come ti atteggi nei confronti del business, del tuo business, come tratti il tuo business, fa effettivamente tutto, perché più una predisposizione a livello mentale che ti porta poi verso un risultato e te lo rende facile, okay, piuttosto che una strategia che ti spiega come con A, B, C tu puoi fare questi soldi. Devi metterci sempre del tuo, ma del tuo interiore, quindi non magari una questione di skill, competenze che servono, ci mancherebbe altro, però il concetto è sempre devi crescere come persona a livello proprio spirituale, ecco, parliamo di spiritualità e poi di conseguenza anche con le skill, perché ricordiamoci che è come andare all'università se non peggio, perché è come se tu fossi un medico che si laurea, magari fai i primi 6 anni, 6 più 5 ne fa 11, ma continua sempre a studiare, fa sempre corsi di aggiornamento, si mette sempre lì sui libri. Una persona che fa business, se non si mette sui libri una volta al giorno almeno è finita. Ok, magari non se ne accorge oggi, ma tra un anno o due, quando il mercato cambia e tu rimani sempre lo stesso, lì te lo prendi in quel posticino di Bruxelles, possiamo dire così. Beh, interessante, perché appunto vediamo la duplice soluzione, diciamo, sia ti serve a te per... cioè, crescere come persona ti serve anche per non fare il business, anche generalmente, diciamo, però... questo aiuta anche questo tipo di, appunto, diciamo, come possiamo chiamarlo, approccio, anzi, come possiamo, cioè, che cos'è il business, proprio in generale? Vai. Volevo un attimo agganciarmi a quello che si stava dicendo prima, con una roba che in realtà secondo me potrebbe essere molto utile, ossia... quello che diceva Pierre, potrei anche dirlo in un'altra maniera, ossia, perché la maggior... cioè, tu hai detto, no? Le persone pensano ai soldi facili, faccio business per fare soldi facili. Perché? Perché ovviamente è molto più semplice per una persona che fa marketing fare una sponsorizzata dicendo ah, non ne voglio di fare niente, fai business e fai soldi perché ti vuole vendere un qualcosa. E ok, fino a qua ci siamo, ognuno fa marketing come vuole e ognuno poi gli ritorna quello che ha seminato, no? Il punto qual è? E che in realtà, secondo me, una persona, ad oggi ci sono tantissime persone che iniziano a fare business da ragazzini, però il vero problema è uno, che le persone lo iniziano come se fosse un'unica scelta, cioè fare business non è per tutti, da un punto di vista mentale, cioè perché? Perché magari una persona piace molto di più, non so, fare l'impiegato, ok, sapere che ha una sicurezza, tra virgolette, una sicurezza, tra virgolette, quindi una sicurezza che a fine mese magari gli arrivano 1.500 euro e magari non gli interessa guadagnare tanto. Però ad oggi, secondo me, con tutte queste sponsorizzate, con tutte queste persone che parlano di business, ok, che appunto la prossima domanda è proprio cos'è il business, il business sostanzialmente è... come te lo posso riassumere? In realtà il business... fare soldi creando. Cioè io penso che la parola business ad oggi venga utilizzato per fare impresa. O comunque per... sai, è una bella domanda in realtà cos'è il business. Perché ci sono tantissime sfaccettature, ci sono tantissime... ci sono tantissimi modi di leggere la parola business effettivamente. Poi ognuno gli dà il significato che vuole. Però tornando a quello che dicevo prima è... molte persone sono quasi obbligate ad oggi, per un pensiero comune, a fare business. E la differenza che io vedo con me, che ho iniziato prima, anzi subito dopo, della diciamo, è stato marzo, aprile, una roba del genere, seriamente, ti parlo seriamente, marzo, aprile del 2020, ok? Quindi dopo tutta la chiusura, tutte le varie robe per... pandemia, eccetera, eccetera, eccetera, io non volevo fare business, cioè nel senso io ho detto ma sì facciamolo, però non avevo aspettative, io non volevo effettivamente guadagnarci da lì, cioè i miei obiettivi erano università o comunque trovare un lavoro nel tempo che mi potesse dare un contratto a tempo indeterminato. Quindi io l'ho fatto, ho fatto il business, ho iniziato a fare business nel vero senso della parola, cioè per divertimento, imparando. Non mi interessava il guadagno effettivamente, perché non era quello il mio obiettivo, ma era un io sto a casa, a sto punto cerco di conoscere più gente possibile, cerco di imparare più possibile, cerco di divertirmi il più possibile. E così è stato, e ti posso garantire che in un batter d'occhio io mi sono ritrovato a guadagnare 5.000 euro al mese, che per me ai tempi era una follia. Io ti parlo da persona che ha, io non ho un padre perché è morto quando ero piccolino, mia madre comunque ha un lavoro normale da 1.500 euro, quindi portare a casa 5.000 euro al mese per me è stata una roba assurda. Cioè per me inizialmente io vedevo che comunque c'erano persone che facevano comunque 5.000, 10.000, 2.000 euro al mese, ma era impensabile. Ho detto boh, sai, sono un po' quelle cavolate del tipo sì lo vedi ma... Non succede a me, capito? Io mi posso impegnare quanto vuoi, però non succede a me. Però poi il punto è questo. Secondo me, ti ripeto, il problema è che le persone ora iniziano per i soldi. Cioè non hanno un obiettivo dietro, neanche personale. Proprio un qualcosa dove dicono ma sì, lo faccio per divertirmi. Poi da cosa nasce cosa? Perché un po' questa è una frase che mi disse una persona che io reputo veramente una persona molto brava da un punto di vista business a 360 gradi e soprattutto anche una persona che diciamo dice robe giuste. La vita è come un fiume, lasciala andare, quel che succede succede, è più che altro quello. E su questa chicca filosofica io ti riprendo il microfono. E dopo questo bel discorso che devo dire mi è piaciuto molto, però per fare un po' chiarezza, Pier, spiegare qui ai nostri ascoltatori, cioè già lui ci ha detto comunque queste sfaccettature, no? Ha detto anche che dietro ci deve essere un piano tuo personale o comunque anche un'idea, una voglia, una spinta, no? Che è quello che un po' dicevo anch'io all'inizio, che non basta solo voler guadagnare. Però per fare chiarezza, caro Pier, se noi volessimo dare una definizione alla parola business, che gli daremmo? Allora, io ti dico, per me, se una persona vuole capire che cos'è il business, può andare su Google e cercare che cos'è il business. Poi, qui possiamo dare pareri, secondo me, soggettivi. Cioè, per me il business è come avere un bambino. Ok, hai una responsabilità, non è che un bambino puoi lasciarlo per strada quando ha un anno, quando ha 6 mesi, quando ha 2 anni. Hai una certa responsabilità, hai dei doveri. Poi insomma ci sono anche genitori che lo fanno, però io parlo dei genitori basic, più o meno. E, no, secondo me è come un bambino, nel senso nel momento in cui lo crei, se effettivamente è quello che vuoi fare, lo porti avanti fino all'ultimo, fino a quando non muore. Il concetto è questo. Poi che cos'è il business? È semplicemente per me creare strutture che ovviamente danno la possibilità di creare lavoro per delle persone, quindi creare una sostenibilità economica per delle famiglie, un po' come dice Briatore, sono molto d'accordo su questo, a livello imprenditoriale ovviamente. E poi successivamente, no, semplicemente è la trasformazione di un'idea in realtà. Attraverso che cosa? La tecnica, cioè le strutture aziendali, quindi attraverso i dipendenti, chi gestisce, quindi anche scegliere il personale è molto difficile perché tu stai affidando il tuo bambino, come dire, ad una babysitter, e quando un bambino ha 1 o 2 anni è molto influenzabile, molto manipolabile, è una spugna e assorbe tutto quello che chiaramente questa babysitter ti fa fare durante l'arco della giornata. Per cui per me è questo. Guarda, allora entro proprio un attimo io e per dirti cosa, per introdurre questo concetto che forse è quello poi principale. Siamo quello che ci hanno insegnato? Forse è questa la domanda, perché sia come diceva lui che le persone sono abituate ad avere una certa idea, no? O come che dicevi tu... Puoi essere, se tu vieni instradato in un certo modo dall'inizio, esatto, questo è esattamente La mia opinione era questa, cioè che appunto bisogna discostarsi da queste concezioni preconfezionate, no? Non è che perché tu hai certe idee allora poi le segui. È proprio questo forse l'aspetto personale che serve a una persona che poi fa business, sì, penso, perché vai, come no? No, che fondamentalmente secondo me il business è il rispecchio alla persona, cioè mette in luce effettivamente quello che la persona è, ma soprattutto non le cose più belle, ma le cose più brutte. Per esempio, una mia problematica quando sono partito, ed era una delle motivazioni che mi bloccava dal poi crescere a livello personale, quindi poi a livello di guadagno, business e tutto quello che vuoi, è una questione proprio di timidezza, di ansia sociale che avevo anni e anni fa. E quindi questa voglia di non parlare con nessuno, di chiudermi dentro di me, io non l'ho presa come una scusa per non sfondare nel business. Anzi, mi sono detto, è un problema, va affrontato. Posso farlo solo io, perché non posso chiedere aiuto a mamma, papà, ai miei amici e addossare tutte le mie problematiche a loro, perché per quanto possano essere utili, per quanti consigli ti possano dare, loro hanno la loro visione della loro vita, loro stanno vivendo il loro gioco, il loro film, ok? E io sto vivendo il mio. Di conseguenza io devo prendere magari spunto tutte le cose belle che mi vengono dette, ma poi alla fine dei conti devo essere io a decidere che cosa fare della mia vita. E quindi secondo me, tornando su questo discorso, magari c'è una filosofia, ecco, che possiamo trarre da questo, è che le persone in questo momento, secondo me in questo periodo storico, dato che ne abbiamo sentite tantissime in Zoom, perché ne abbiamo fatto per anni un sacco di Zoom, non hanno le palle di vivere, cioè non hanno le palle di dire io oggi faccio questo, ho preso una decisione, mi sento di fare questo. Io domani vado da quella ragazza e le dico che farò questo e le dico cosa provo. Nessuno ha più questa cosa, questo fuoco che arde. E quindi per me, io sono molto contento di questo a livello imprenditoriale, perché ci sono pochi competitor, poi effettivamente è molto semplice spiccare in mezzo tra la massa ed essere il migliore. Guarda, sono super d'accordo con te. Pensa, il mio business è fare dei video su YouTube sulla spiritualità, quindi se non fossi d'accordo sarei andato proprio a picco, andrebbe a picco tutto. Ma tu hai detto che una delle cose che secondo me anche è la cosa principale, ma ne faremo parlare da Gianluca, non ne parlerò io, ovvero la capacità di affrontare i problemi. Perché allora poi magari dopo ci darete qualche spunto anche magari concreto, non soltanto sulla parte. Quindi ragazzi, continuate a seguirci, perché dopo arrivano i consigli per fare i soldi. Buttiamoli là. Dopo tipo come se fanno un sacco di soldi, raga. Però dovete seguire tutta la puntata. Esatto. No, vendendo quello che volete. Pensate, però dovete seguire tutta la puntata. Vabbè, ritornando a noi, dicevo che secondo me anche questo è l'aspetto principale poi di questa caratteristica, perché noi stiamo approfondendo le caratteristiche personali che ti portano ad essere un imprenditore, forse. Perché non so questo termine ad oggi che significato. Io guarda, l'ho studiato all'università e comunque è colui che dirige un'impresa. Poi, da qui a che cos'è l'impresa e come lo fa, c'è un mondo, infatti. Quindi diciamo che secondo me fare business è anche quello che hai detto tu, appunto, la capacità di trasformare quello che pensi in qualcosa che succede veramente. Poi che tu ci faccia i soldi o no, in realtà è relativo, perché se tu riesci a mettere in atto quello che pensi, dopo magari dovrai solo trovare qualcuno che lo compra. Però se non hai questa abilità devi e quindi diciamo questo. La impari, secondo te la impari? Secondo me non si impara. Ecco qual è la mia tesi, vai, vediamo. Fammi vedere. Prova a darmi torto. Allora, di cosa vuoi che parliamo? Di affrontare i problemi, come dicevi prima, o di quello che stavamo dicendo ieri, che secondo me è anche molto interessante? Quello di ieri. Ok, ci sono. Allora, quindi partiamo dal presupposto, faccio un piccolo preframe per far capire un attimo. Sì, io sono una persona che si dilunga molto, quindi tempisticamente poi mi fai guarda e mi ci tolgo. Esatto. No, allora, sostanzialmente il dibattito ieri è nato dal, ok, tra virgolette, il genio, quindi una persona che possa eccellere in un qualcosa. Lo si nasce, quindi è un qualcosa di innato o è un qualcosa che si può imparare? Io guarda, ti volevo chiedere però proprio di questa capacità di cui parlavamo, cioè di affrontare i problemi e prendere decisioni in modo consapevole in base alla propria personalità. Questo, secondo te, si impara? Allora mi hai tirato un tranello, perché ho detto di questo. Allora, sì, assolutamente, assolutamente. I problemi li impari a superare con il tempo. È difficilissimo, nel senso... Anzi, ti metterò davanti a una mia riflessione che faccio spesso, è che in realtà i problemi esisteranno sempre, ok? E tu non imparerai mai ad affrontarli, perché ogni volta che ti si presenterà di fronte un problema sarà sempre più grande di quello precedente. E quindi... Esattamente, cioè è come il cattivo di un cartone animato, no? È come per dire, Goku diventa fortissimo e sconfigge Frieza. Però poi arriva Cell, che è ancora più forte, no? E quindi tu dici, cavolo, ma ci sono sempre problemi, non sto ancora riuscendo a capire come risolvere i problemi. Ma in realtà tu li stai risolvendo, è solo che ogni volta alzi l'asticella e ovviamente i problemi si alzano. L'unica roba, come dicevo prima, per affrontare i problemi è combatterli, cioè avere problemi, no? È come per dire... Per vedere l'arcobaleno ci devi passare in mezzo alla pioggia. E se no come lo vedi l'arcobaleno? Non è che si fa l'arcobaleno, a meno che non lo vedi dall'irrigatore, no? Quando lo fai con l'erba. Ma per vedere un bel arcobaleno deve piovere, punto. Quindi i problemi sono ad oggi quello che io cerco. Perché se non ci sono problemi automaticamente... C'è una bellissima frase che cita questo, no? E dice i problemi portano le opportunità e le opportunità portano soldi. Se non... Pensavo l'opportunità portasse i problemi. I soldi poi portano i problemi. Ed è questo il bello. È un ciclo, capito? Quindi se tu hai problemi poi ovviamente avrai anche un'opportunità. Dall'opportunità arrivano i soldi. E così viceversa. Cioè continua il ciclo, no? E tra l'altro mi prolungo un altro secondo dicendo: nella prima volta che io, anzi, con la prima azienda con la quale io feci la prima tipologia di business, che ai tempi era network marketing, io mi lamentavo sempre con la persona che mi parlò di questa opportunità, di tutti i vari problemi. Dicevo, oh, ma perché la persona per comprare, ad esempio, il pacchetto non può pagare con carta, ma deve farlo col bonifico e poi arrivano tra tot giorni, poi le persone si pentono, chiedono il rimborso, eccetera, eccetera. Mi fermò e mi disse... Aspetta un attimo, se non ci sono problemi, non c'è il business, non ci sono soldi. Cioè, se non ci fossero stati dei problemi, ci sarebbero state persone prima che li hanno fixati, no? E quindi adesso non ti troveresti a fare business, a fare soldi. Questa è una roba molto importante, secondo me. Cercare problemi. Beh, guarda, sì, vuole aggiungere qualcosa Pier, vai. Dura due secondi, focalizzandoci sui problemi. Le persone, secondo me, parere personale, scappano dei problemi, e il business è fatto di problemi, e più cresci più problemi risolvi, cioè tu cresci sulla base di problemi che risolvi. Non può essere tutto bello, così come nei rapporti tra amici o fidanzati o in un business tra collaboratori. Non andrà mai tutto bene, anzi non andrà mai bene per te personalmente, non andrà mai bene, proprio perché secondo me è come se tu stessi ricercando sempre la perfezione, capito? E quindi hai sempre questa sensazione del c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, e le persone non sono abbastanza forti da poter sostenere una pressione di questo tipo. Pressione vuol dire problema giorno 1, 2, 3, 4 per tutta la tua vita. Allora, vuoi davvero così tanto fare business? Perfetto, devi renderti conto che hai delle responsabilità grandissime, tanta pressure che ti porterà in certi momenti a impazzire, a dubitare di te stesso, delle tue capacità, di chi sei, cosa fai, un po' tutto. Ed è proprio in quel momento che si vede l'imprenditore con la I maiuscola, cioè colui che continua per una visione di un mondo migliore, perché tu con quello che costruisci migliori il mondo in settori diversi, però lo stai facendo. Stai dando soldi anche a delle persone, quindi stai permettendo alle altre persone di vivere di un lavoro. Ok, sono tutte responsabilità che tu, imprenditore, ancora prima di creare qualsiasi cosa, devi capire se ti vuoi assumere. Perché se non sei abbastanza forte per questo, mi dispiace, ma non c'è proprio la possibilità. Magari potrei fare 5.000 euro oggi, 5.000 euro tra due mesi, ma tra un anno ti crollerà tutto, perché non sarai più capace, entrerai in burnout e non sarai più capace di poter gestire il tutto. E farai del male non solo a te, ma a tutte le persone che appunto ti circondano all'interno di questo percorso. Molto molto interessante, devo dire, anche molto azzeccato, secondo me corretto. Ma io vi faccio, ragazzi, la domanda che tutti gli ascoltatori si stanno facendo. voi direte, se tu non hai questa mentalità, la puoi ottenere? Cioè, se io sono una persona che ha paura di affrontare i problemi, paura di mettermi in situazioni non comfort, posso ottenere questa cosa oppure posso restare così? Due sono le domande. Una è questa. L'altra è, posso rimanere così e fare i soldi? Chi vuole rispondere? Gianluca, prima tanto la pensiamo tutti e due lo stesso modo. Dicono che la pensano allo stesso modo. Chi la dice? Vai. Allora, la prima domanda era, posso... posso... No. questa me la ricordo. Era un posso... posso imparare effettivamente a, ad affrontare... Sì, difficile, nel senso che lo devi imparare, però secondo me l'unico modo per farlo è diventare un, come nel film, uno yes man. Ossia, è difficile, ok, andare a combattere, perché questa è la lotta tra te e te stesso, come sempre. È la lotta più grande che tu possa combattere nella tua vita. E questa è spiritualità in pieno. A 360 gradi. Ok, quindi una persona che magari chiede, ma io posso imparare, posso abbattere, no, la paura? Sì, però devi iniziare a capire che la parola no, che tu ogni volta dici, e mi permetto di dirlo perché ho parlato con un migliaio di persone in questi anni da un punto di vista business, non parlo di amicizia o altro, è che la maggior parte delle persone per paura dice sempre no a tutto. Sempre. Se invece tu ogni volta che ti venisse chiesto un qualcosa, non parlo anche di robe a pagamento, io parlo di robe gratis, cioè esperienze, dicessi sempre di sì, ogni volta ne sbaglieresti, perderesti un sacco di tempo, assolutamente sì, sbaglieresti un sacco di volte, assolutamente sì, ma qual è il knowledge, quindi l'esperienza, la conoscenza che ti porteresti al termine di magari 6 mesi portati avanti in questa maniera, ok? Quindi si può imparare... Assolutamente sì. Nel senso, puoi imparare a come posso dire, a non mi viene il termine, aiutami. Affrontare i problemi? Assolutamente sì. Però devi andarci incontro, purtroppo. Non è semplice, non è semplice, devi combattere con te stesso, perché dire ok, combatto con i miei problemi è facile a dire. E a farsi? È un bel casino. Però non c'è una chiave magica, capito? Ti ci butti. E ti faccio una piccola parentesi per farti capire. Nel mondo reale, magari, quindi in un mondo tradizionale che possono capire molte più persone, io quando sono andato nell'esercito, io non volevo andarci nell'esercito. Mia madre mi ha iscritto al bando dell'esercito e mi ha mandato, no? Io avevo 18 anni, sono stato mandato ad Ascoli Piceno, con emergenza terremoto quando ci fu ad Amatrice e emergenza tempo, perché c'era il tipo un freddo, c'erano meno 15 gradi, una roba del genere. Io a 18 anni, in un posto dove ti prendevano a parolaccia ogni 2 secondi, perché dovevi fare esattamente quello che dicevano, esattamente, perché poi i primi 15 giorni sono fatti apposta per mandarti fuori, con terremoti, perché ne ho sentiti 3 quando sono stato là, comunque io non avevo mai sentito un terremoto in vita mia, ero un ragazzino, allerta meteo, perché io di Bari, immagina, trovarmi a meno 14 gradi, cioè stavo così, ho detto, porca puttana, ma che faccio adesso? T'adatti, capito? Dopo una settimana stavo da Dio. Io la prima settimana, te lo giuro, ho pianto ogni giorno, chiamavo mio cugino, chiamavo mia madre, io non ce la faccio qua, voglio mollare, tutti dai, aspetta, dopo una settimana ho detto ok, ci sta. Però se non lo fai, se non sei obbligato, ok, se non sei obbligato a farlo, è davvero difficile che tu ci possa riuscire. Però se ti obblighi mentalmente in una situazione, in una qualsiasi maniera, poi ognuno può decidere come obbligarsi, lo fai. Mo' dice vanno. No, comunque, guarda, questa cosa qui che tu mi dicevi, io purtroppo sai che sono d'accordo a metà, come ti dicevo, perché... In realtà per me è molto molto corretto quello che hai detto, però non dovresti essere obbligato dall'esterno. Beh, se sei obbligato da diciamo qualcuno che ti vuole bene, come tua madre, magari può funzionare, diciamo. Però ecco, in realtà secondo me questo obbligo dovresti trovartelo tu. Come dicevi tu poi alla fine, di trovare un modo per obbligarti, non... Perché se lo fai contro te stesso, comunque non ti darà poi quel bagaglio che ti serve, che infatti io nei miei video, pure quelli su YouTube, ho fatto un video che si chiama proprio accettare gli errori, proprio perché secondo me è proprio questo il blocco delle persone. Le persone hanno paura di sbagliare, ma non capiscono che si impara solo così, come dici tu. Cioè, se tu non sbagli, poi non la saprai mai fare quella cosa. Quindi, se tu hai paura di questi errori, ti vai a privare della crescita necessaria per non farli più. Quindi, beh, c'era pure Pier, però ribattiamo, vai. Ah, hai ragione, nel senso che non dovrebbe, meno male, non dovrebbe essere così, ossia non dovresti essere tu, o meglio, un'altra persona a limitarti, quindi metterti in situazioni spiacevoli, ma dovresti essere tu stesso. Però, si possono dire parolacce? Grazie al, cioè nel senso, capito, perché... Grazie al pazzo, nel senso, sarebbe semplice se fosse così, se ognuno si riuscisse a mettere da solo in quella situazione spiacevole. No, aspetta, però non ti dico di metterti da solo, io dico, come dicevi tu, un po' yes man, cioè ti succede una cosa, sto a disagio, però dici, vabbè, la faccio uguale, io la devo fare. Cioè, una forza che di questa, che ne so, dici, oh, mi devo andare a tagliare i capelli, però c'ho paura di uscire. Esco uguale, li devo tagliare. Esatto. Il mio ragionamento si univa esattamente a questo, cioè si collegava direttamente a questo, ossia per tutte quelle persone che non ci riescono, ok, io sto facendo un ragionamento un po' più già ho affrontato il problema tra virgolette nella mia mente, già stavo dando una soluzione per le persone che non ci riescono proprio. È inutile che tu li vai a dire devi riuscirci, no, inizia facendoti costringere da qualcuno in una maniera. Dopo che hai capito che quella roba non ti può nuocere, non ti può danneggiare, inizi a farlo da solo. Hai capito? È questa la differenza sottile. Molte volte noi ci dobbiamo obbligare in alcune maniere, come ad esempio quando facevo il business nel network, ma in realtà lo dico tuttora in una qualsiasi conversazione, se una persona ha paura di compromettersi, ok, utilizza il denaro. Ma non c'ho soldi, meglio. Perché se tu utilizzi tutti i soldi che c'hai per comprometterti in una roba, ad esempio, vuoi iniziare un business che sia un qualsiasi business, ok? Puoi fare una roba. Ovviamente le persone dicono, vabbè, a quel paese, nel senso, però è così, cioè, se lo vuoi fare veramente... Perché? Perché se io volessi iniziare a fare un business e tu fossi il mio migliore amico, sai cosa direi? Io ti direi, guarda, io inizio a fare questo business. Se in tot mesi non ho avuto tot risultati, ovviamente è una roba realistica, ok, che puoi raggiungere, io ti lascio 1000 euro adesso. Ovviamente è una persona fidata, non lasciarla a una persona che... Ti lascio 1000 euro adesso. Se non... Esattamente. Se non ci riesci, ok, te li tieni tu. In base a quanti soldi hai, vai a staccare una percentuale abbastanza grande, perché deve essere un qualcosa che ti deve compromettere. Ripeto, giocare con il proprio cervello, con la propria mente, perché la mente mente, come dice la stessa parola, ma giocare con il proprio cervello, con la propria mentalità, è difficilissimo. È l'unico grosso scoglio che una persona deve affrontare, deve superare per arrivare a quel successo, che poi anche il successo è un parolone, perché che vuol dire successo? Capito? Ce lo dici dopo. Non lo so. Ah, non lo sai. Allora non mette in gioco cose che... scherzo, ovviamente, ma c'era Pier che voleva aggiungere qualcosa. Vai, Pier. No, volevo semplicemente specificare che io sono il prodotto di tutto quello che è stato detto, effettivamente, sia da Gianluca che da Ertampillo, nel senso che io ho avuto un'esperienza di vita, soprattutto quando ero molto giovane, quindi poco prima anche di iniziare il business, poi durante... Soprattutto nei primi 5 anni, quindi dai 15 ai 20 anni, ho avuto tantissimi problemi, tantissimi blocchi che chiaramente sia nella vita personale, a livello relazionale, quindi tra amici, ragazze e tutto, che a livello di business e anche scolastico, non mi permettevano di progredire. Quindi chiaramente io ero meno degli altri sotto ogni singolo punto di vista. Il punto è che delle volte tu arrivi ad un punto dove hai due possibilità. C'è una strada senza ritorno che si chiama l'accettazione, secondo me, del problema che hai, e la pigrizia nel non risolverlo, perché magari ti piace più piangere con le persone a te più care, a te più vicine, e ti compiace questa cosa del dolore. Oppure hai una seconda possibilità: fare effettivamente quello che serve, quello che è necessario per poter crescere. io ho scelto la seconda possibilità. Sicuramente nessuno mi ha supportato, nessuno mi è stato dietro, neanche a livello familiare, in quanto, per quanto i miei genitori siano stati dolci anche nell'accudirmi, eccetera, eccetera, in determinate cose sei te contro te stesso. E là devi, se hai paura di parlare di fronte a un pubblico di 100 persone, devi parlare di fronte a un pubblico di 100 persone. Se hai paura di fare quell'appuntamento con quella ragazza, tu vai e lo fai, indipendentemente da come va. Tanto siamo 7 miliardi, io credo che fare una figura di M ogni tanto, secondo me, può farti solo che svegliare, no? Grazie Pier per aver aggiunto. Devo dire, ragazzi, sono molto contento perché abbiamo discusso dell'argomento, sì, come mi interessava barra piace fare. E niente, ragazzi, colgo l'occasione per ricordarvi dove stiamo andando in onda. Roots Radio, anche su Twitch. Oh, 2O, raga, non mettete la U, eh? Cioè, R-O-O-Z, no, c'è un macello. E siamo anche su Twitch, il mio programma si chiama appunto Angolo Der Tampillo. Non mettete la L, raga, Der, perché so di Roma. Perché è importante, sto portando il romano qui alle Canarie, ragazzi. Lo sto esportando. E niente, vi dicevo, ci potete seguire tutti i giovedì, sempre su Roots Radio, sul mio canale Twitch. Ma tanto, ragazzi, come vi dicevo, vi basta segnarvi Linktree oppure entrare sul canale Telegram e tutte queste informazioni, le news, tutti i nuovi programmi, perché mica è finita, raga, farò altri programmi. Tutte le informazioni escono lì sul canale Telegram, quindi se volete entrate, da lì potete seguire tutto. Io direi, ragazzi, visto che siamo quasi in chiusura, volevo chiudervi con... cioè, volevo lasciare questi ragazzi che ci ascoltano con un esempio pratico, un vostro consiglio, una vostra pillola pratica nel campo del business, così che può ispirare i nostri ascoltatori. Chi vuole iniziare? Vai, tu ne hai già uno, vai. Vai Pier, facci sognare. Allora, non sono sogni ma solida realtà. Non mi ricordo chi lo diceva. Roberto Carlino. Roberto Carlino. Ah, sono molto ignorante sui nomi anche dei film, soprattutto. Vabbè, mi addormento anche durante il film, quindi vabbè. Manco li vedo, effettivamente. E, no, vabbè, diciamo un'idea di business, secondo me, si allinea molto con quello con cui io sono partito. Dato che la problematica di molte persone, questo è un problema da... comprendere e accettare e crearci un business sopra, secondo me, è la mancanza di soldi, tra virgolette, da parte delle persone per poter iniziare a fare business. Allora, se noi partiamo da questo concetto, che poi tra l'altro non è al 100% vero, perché sappiamo benissimo che le persone, che gli italiani tendenzialmente risparmiano e non investono, di conseguenza è come dire che non hanno soldi. Ok, e un'idea di business, secondo me molto figa, parte dalla generazione capitale. Mi spiego meglio. La generazione capitale non è una tipologia di business, è un metodo per tirare su qualche soldino, ma che, se applicato su altre tipologie di business, può essere molto profittevole. Ora, le parole chiave per tutto questo, per generazione capitale, creazione capitale, sono matched betting, ogni tipologia di bonus che vi dà una garanzia, tra virgolette, sul guadagno. Per esempio, un bonus come Revolut, possiamo dirlo, che dà soldi gratis semplicemente per diventare nuovo cliente, anche quello si chiama generazione capitale. Ora, la problematica principale è che la maggior parte delle persone vede queste tipologie di bonus come una roba così, cioè nel senso che all'apparenza, cioè, non servono a niente, perché tu che cosa fai? Magari fai 100-200 euro, fai 300 euro. No, magari sì. Alcuni pensano di farne 20-30, uno dice vabbè, mi sono fermato là perché un guadagno una tantum. Però io parlavo prima appunto di creare strutture, creare business. Non è tanto trovare la strategia per fare soldi, ma associarla ad un'idea di business. Per esempio, se tu hai la skill, la competenza del saper far generare soldi a delle persone, però vale anche solo 100-200 euro, e sei bravo in qualcosa, per esempio, a giocare a calcio, se dare istruzione, oppure sei anche un professore, ok, di microeconomia, come chiaramente Ertampillo, potrebbe essere un modo bello per vendere a costo zero il tuo prodotto. Quindi sostanzialmente io come sono partito? Io sono partito così, cioè io vendevo prodotti senza far spendere soldi alle persone. E questo è un modo, secondo me, ottimale per una persona che parte da zero e si approccia al mondo del business e non ha mai parlato con persone, non ha mai venduto niente. Tra parentesi, nel business si vende sempre, o vendi te stesso o vendi un prodotto, è la stessa cosa, se non ti piace vendere non fare business. E il concetto è molto più semplice cercare di vendere un qualcosa che costa zero piuttosto che 100. Quindi sicuramente un buon primo approccio per una persona che non ha mai fatto un C, parolaccio, C-A, ok, per quelle persone che non hanno mai fatto niente e che quindi si devono approcciare per la prima volta. Sanno far fare 100-200 euro, basta che si creano un loro prodotto, che chiaramente sia valido, che abbia informazioni valide, e lo vendono esattamente alla cifra che fanno generare a quel cliente. E così hai già creato un business. Che roba, ragazzi. Io direi di seguirci per altre ricette qui. Perché se qui si scopre roba molto interessante, ragazzi. E questa è solo la prima puntata, quindi continuate a seguirci. Ma vai, Gian, dici la tua pillola di business. Allora, in realtà io vorrei partire non troppo nel pratico-pratico, ma pratico-teorico, che secondo me è anche meglio per una persona che non ha mai fatto business e vorrebbe iniziare a fare il business. Ossia, come dicevo prima, dimenticatevi i soldi. So che è difficile, ma magari trovatevi un lavoretto secondario, in primis, così che non abbiate la testa sempre soltanto ai soldi. Dopodiché, trovate magari una persona che già faccia un qualsiasi tipo di business. Non è importante trovare il business della vita, perché tanto col tempo imparate e iniziate, attaccatevi a quella persona, qualsiasi cosa vi dica, anche se sono cavolate, fa niente, perché tanto se sono cavolate poi imparate effettivamente, ok, se questa cosa non è andata, forse il contrario andrà bene, ok? È sempre quello che dicevo prima, quindi se sbagli, poi puoi andare avanti e fare le cose per bene. Quindi datevi tempo e soprattutto non cercate il business perfetto, non andate lì per, ok, devo iniziare a guadagnare 5.000, 10.000, cioè guardate i traguardi anche come 100 euro guadagnati online, per esempio, se volete farlo online, è un traguardo, cavolo. Io, per esempio, l'unico, questo non so se te l'ho mai detto, l'unico traguardo che io ho festeggiato nella mia vita sono stati i primi 600 euro al mese fatti online. Poi dopo il resto in realtà sì, sono stato contento, però avevo così tanta energia, tante robe che manco ci pensavo a, no, ma voglio festeggiare così qua. La prima volta che ho fatto 600 euro online, ho fatto, a tutti, andiamo a bere. Ho offerto 600 euro di robe, capito? Non me ne fregava niente di soldi. Era, ok, sono arrivato a questo punto, ho fatto questi soldi grazie all'online in un mese, che tutte le persone dicevano, andavi a fare, non so, Glovo, Just Eat, ne facevi il doppio. Ma non era quello, era l'idea che si stava creando dietro di un, sono riuscito a crearlo io dal nulla, senza sottostare ad altre persone. Quindi il consiglio è questo: iniziate una qualsiasi tipologia di business, che possa essere, come ha detto Pierre, il matched, roba del genere, che comunque magari sono un po' più matematiche, o un'altra attività, un'altra qualsiasi attività. Investite su voi stessi, perché tanto i soldi, anche se dovesse andare male, comunque non sono sprecati, state comunque imparando, affrontando la vita e avendo lezioni di vita. Poi da lì, tempo al tempo, tutto arriva. Punto. E questa è l'unica roba importante che possa dire. Imparate dai vostri errori. Punto. È inutile dare un qualcosa di pratico, secondo me, a persone che magari vogliono approcciarsi. Beh, io devo dire, ragazzi, che questi pareri sono stati entrambi molto molto interessanti. E come dicevo prima, ragazzi, siamo arrivati qui alla fine. E anzi, no, scusami, prima ti volevo aggiungere una cosa a quello che hai detto, sì. Anche questo è sempre stato il mio modello, anche. Cioè, quale? Per me, se tu tiri fuori un euro, ma da una cosa che hai pensato tu dall'inizio alla fine, quello è un business. Vai. E si può chiaramente portare su cifre più alte, perché il business è scalabile. Mentre un dipendente che fa 1.200 al mese farà 1.200 al mese. E quindi secondo me anche questo è il bello di fare business. C'è una scoperta continua, una io ogni giorno mi sveglio alle 5 e mezza 6 perché ho questo hype costante che so che cresce, cioè so che il mio bambino posso farlo crescere, capito? So che c'è una visione nuova, capito? Ogni giorno. Invece io ho scelto di fare business per questo, perché io mi annoio a fare la stessa cosa ogni singolo giorno, quindi io ero già sicuro. Non ho mai lavorato nella vita come dipendente a contratto, però so i miei genitori che cosa hanno passato e non è quello che volevo passare io. Poi per una persona magari si preferisce più la tranquillità e quindi non ha un obiettivo anche a livello monetario di fare chissà che cosa. Però il concetto dell'euro è: se io posso fare un euro posso farne un milione, ma per il semplice fatto che tecnicamente il business è scalabile. Se tu vendi una cosa a un euro a una persona, basta trovare un milione di persone che siano come lei per venderlo, hai fatto un milione di euro. È così semplice a dirsi? Sì. A farsi? No. Si può fare? Sì. Come? Come abbiamo detto. Prova. Come abbiamo detto in questa puntata, no? Quello che abbiamo detto in questa puntata ci serve per capire un po' il come arrivare almeno a generare un euro, ma da una propria idea, no? Che può essere idea o come vendere, come dice, un prodotto, però hai un modo di vendere, un modo di interagire con le persone. Non è che tu dici, sono una persona qualsiasi, vendo una cosa qualsiasi, questo è un business. No. Giusto, no? Poi voi mi confermate. Quindi ragazzi, il messaggio principale è lavorare su se stessi in primis, su le proprie problematiche, ma affrontandole senza... Detto, poi ci può stare un po' di debolezza, eh? Non è che devi andare sempre con un treno, ogni volta che c'hai una debolezza la devi affrontare per forza. Ogni tanto puoi cedere, però non 100% delle volte. Se ogni volta che tu hai un problema, dici, oh, come dicevi tu, preferisci piangerti addosso che affrontarlo, bello mio, non cercare troppo lontano la tua problematica e perché le cose non vanno. Quindi quello che abbiamo provato a trasmettervi oggi è che l'atteggiamento poi alla fine conta più del business che scegli, del prodotto e dei soldi. Diciamo che l'atteggiamento ti fa scegliere poi il business, giusto? Sì, è quello, che se tu hai un certo atteggiamento probabilmente verrai attratto. Sì, è questo. Quindi, come dicevo ragazzi, per oggi c'è la frase conclusiva? No, guarda, chiudo subito, guarda, non saluto neanche io, basta. Era bello però, Ci sarebbe stato, ciao raga. Ciao, basta, no, lui vuole concludere, no, non accetto conclusioni, non mie. No, la frase conclusiva, o più che altro il concetto conclusivo molto molto semplice è: ragazzi, iniziate, ok, buttatevi, sbagliate, mal che vada. L'avete imparato? No, mal che vada, si può dire, sti cazzi. Scuso Twitch, ci scusi per... La questione è questa: se una persona inizia a 20 anni a fare business e investe, mettiamo caso, anche 5.000 euro nel giro di un anno, di due anni, e che sono 5.000 euro a 20 anni, nel senso, cioè, cosa hai perso nella tua vita? Sì, hai perso 5.000 euro, ma c'è tutta la vita davanti, non è che hai speso mezzo milione a 20 anni, capito? E questo è quello che dico io. Ti costerà qualcosa nel tempo? Sì, potrai magari permetterti meno robe materiali lì per lì, ok? Se passate 5.000 possono essere 50 euro, uguale l'idea, no? È la mentalità che sto dando. Nel senso, investi. Se va male, stica. Punto. Se va bene, invece? Se va bene, ve lo diciamo nella prossima puntata. Questa era la puntata su quando va male. No, comunque ragazzi, veramente questa volta vi saluto, vi rimando sempre a tutti i contenuti che, come vi ho detto, sono Roots Radio, cercate il mio Linktree e da lì trovate tutti i link anche ai miei altri progetti, ho la radio sulla musica, faccio il tutor di economia, i video di spiritualità, pure i streaming di Magic, un po' tutto, forse faremo anche il podcast di scacchi e forse anche sulla marijuana, vediamo. Siamo in un posto dove è legale, ci tengo, tollerata, quindi nessuno mi può dire che non posso dire questa parola. Comunque ragazzi, ovviamente vi rimando anche alla prossima puntata di questo podcast, che vi cercheremo di fare sempre più dettagliato, e questi erano i consigli iniziali per chi vuole comprendere un po' questo mondo del business e non ci si vuole approcciare a caso, forse era questo lo scopo. Dartan Pillo ragazzi, è tutto. Da Gigi anche. Ciao regà. Bella da tutti ragazzi, è stato un piacere. termina la diretta, termina questo. Ah,